Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Nona puntata. Il commissario riprese il suo racconto, la sua ipotesi sull'omicidio di Pellegrino perpetrato dal ragionier Gargano. E allora, signori miei, adesso la domanda principale è: perché Gargano versava dei soldi a Giacomo Pellegrino? Per amore, perché no? Secondo quello che sappiamo, non era solamente un rapporto d'eletto, no? Io penserei un ricatto, invece. Perché Pellegrino poteva minacciare Gargano e rivelare a tutti la sua omosessualità. Vabbè, ma oggi come oggi? Ma chi se ne fosse se uno è o non è omosessuale, faccio? Beh, Gargano ci teneva a non apparirlo, Anche se mi sembra un po' deboluccia come minaccia. Secondo me le cose sono andate in questo modo. Statemi bene a sentire, perché mi sono fatto un film, Allora, Gargano organizza una truffa che ha bisogno di tempi lunghi e di un'organizzazione vera e propria, cioè a dire un ufficio e degli impiegati, insomma, eccetera, eccetera. Tra gli impiegati che assume c'è Giacomo Pellegrino. Oh, Giacomo Pellegrino è una testa parziale. E cioè che significa? Per testa parziale io intendo la testa di quelli che si occupano dei soldi. Del denaro sanno tutto. Lo conoscono come se stessi, sanno come ha cagato, come ha pisciato, come ha mangiato, come ha dormito, sanno quando vuole figliare, cioè produrre altri soldi, o anche quando gli vengono le manie suicide. Ecco, queste teste parziali si chiamano grandi banchieri, grandi operatori, grandi speculatori. Sono delle teste, delle persone che funzionano solo nel loro ambito, perché se le porti fuori dal loro ambito diventano goffe, limitate, primitive, d'accordo? Oh, Giacomo Pellegrino è una testa parziale che incontra una testa ancora più parziale della sua, e cioè a dire Emanuele Gargano. Tra i due nasce una storia d'amore. Emanuele Gargano comincia ad affidare a Giacomo Pellegrino dei compiti sempre più importanti, e Pellegrino, che non è uno scemo, capisce subito che c'è qualcosa che non quadra. Però non dice niente. Comincia ad accumulare dati e a stabilire connessioni. E Gargano è così innamorato del picciotto che non si mette mai in sospetto. E anche se intuisce le sue intenzioni, che fa? Lo licenzia. Sarebbe peggio, no? Meglio fare buon viso a cattivo gioco. E certo, spera che Giacomo si accontenti del veleno. Esattamente, lui se ne scapperà con il denaro e Giacomo Pellegrino in santa pace si godrà il villino. Ma io ancora non capisco perché ha detto allo zio che se ne andava in Germania. Ma perché lo zio dicesse a noi? Così lui si può presentare con la sua aria da innocentuzzo e dire che il viaggio in Germania è stata una trappola di Gargano che se lo voleva togliere dai gabbasesi. Ma allora perché ha fatto tutto questo casino con i biglietti? Per cadolarsi in ogni caso da tutti, da Gargano e da noi. No, no, credetemi, Giacomo Pellegrino l'aveva pensata bene, solo che gli è capitato un imprevisto. Quale imprevisto? E quale imprevisto, Mimì? Una revolverata in piena faccia ti sembra un imprevisto da poco? No. Secondo me il picciotto, vedendosi avvicinare l'ora della conclusione della truffa, ha tirato la corda, è andato da Gargano, gli ha detto che voleva più soldi, e Gargano gli ha detto d'accordo. Anzi, ha rilanciato, ha detto che se ne sarebbero andati all'estero tutti e due, con tutti i soldi, e avrebbero vissuto felici e contenti. E Giacomo accetta? Sì, ma una condizione. Che Gargano gli dica in quali banche estere ha messo i soldi della Remeda, e gli dia tutti i codici d'accesso. E Gargano accetta. L'unica cosa che gli dice è che è meglio che vadano all'estero separati, così la polizia non può pensare che siano fuggiti insieme. Ma Gargano ha già deciso di trasferire i conti qualche ora prima di scomparire, e pensa anche di non presentarsi all'appuntamento all'estero, è così? Esatto. Ma Giacomo Pellegrino non è uno stupido. E quando arriva il momento, e cioè a dire la mattina del 31 agosto, all'alba, il giorno in cui dovrebbero partire, telefona a Gargano e gli dice di precipitarsi a Vigata. Altrimenti va a spifferare tutta la polizia. Loro devono espatriare insieme. Gargano non ha altra alternativa. Prende la macchina e si precipita qua giù. Oh, finalmente ci vediamo. Ciao. Quando si spara in faccia a uno, affermava Montalbano, è quasi sempre per odio. perché si vuole cancellare quella faccia. Mi dispiace. Gargano aveva ammazzato Pellegrino fuori dalla macchina appena l'aveva visto arrivare. Poi l'aveva preso e sistemato al posto al lato del guidatore. Il cadavere scivola di lato e si mette per lungo. Ecco perché quando passa il professor Tommasino non vede il morto e pensa che la macchina sia vacante. Gargano tira fuori la sua valigia dal bagagliaio. Al suo posto ci mette il motorino, dopo averne raputo il bauletto e pigliato la valigetta coi documenti. A questo punto arriva il professor Tommasino. Gargano gioca con lui ad ammuccia ammuccia, aspetta che quello si allontani, poi inserra gli sportelli e si mette ad ammuttare la sua macchina fino a quando non precipita di sotto. Immagina, e immagina giusto, che ci sarà qualche stronzo che incomincerà a cercare il suo cadavere, fattosi persuaso che si tratta della vendetta della mafia. Con la valigetta in mano, dopo manco un quarto d'ora, è sulla strada dove passano macchine. Domanda un passaggio a qualcuno che magari paga profumatamente perché non parli. Buongiorno commissario. Novità sulla signorina Cosentino? Sì, è nata qua nel 1950. Suo padre era Angelo Cosentino, commerciante in legname, persona onesta e rispettata. La madre Carmela Vasile Cozzo. Come detto? La madre Carmela, Vasile Cozzo. Grazie. Carmela era mia cugina. Maria Stella era la sua unica figlia ed è stata anche mia allieva. Ah. Ha sempre avuto un carattere particolare. In che senso? Era terribilmente chiusa, riservata, quasi scontrosa. Era figlia unica e la perdita della madre a soli 15 anni ha sicuramente influito negativamente sul suo carattere. Da quel momento si è dedicata completamente al padre e non è più uscita di casa. Ma economicamente stavano bene? Non erano ricchi, ma non erano neanche poveri. 5 anni dopo la morte di Carmela, morì anche Angelo, il padre. E Maria Stella ormai aveva 20 anni, ma si comportò come una piccirilla. Perché? Che fece? Quando seppi che era morto Angelo, andai a trovare Maria Stella. L'abbracciai, avrei voluto confortarla. Si staccò bruscamente da me, mi tagliò e mi spiò. Ma perché? Chi è morto? Non voleva riconoscere la realtà, non voleva accettare la morte del padre. E la questione andò avanti per 3 giorni. La salma del povero Angelo giaceva là sul suo letto e Maria Stella non permetteva ai becchini di fare il loro lavoro. Mi paria nisciuta pazza, mi paria nisciuta pazza. Ma Maria Stella non era pazza, aveva soltanto paura. Paura di restare sola, paura di essere un'orfana, paura di non avere qualcuno a cui potersi appoggiare. Gli pareva di ricordare che l'agenzia chiudeva alle 5:30. Chiacchierando con la signora Clementina, non si era addonato del tempo. Ringraziò, salutò, promise che sarebbe tornato presto. Salì in macchina, partì. Vuoi vedere che trovava l'agenzia inserrata? Quando arrivò all'altezza della remida, vide che Maria Stella aveva già chiuso il portone e che stava arremescando nella borsetta, evidentemente in cerca delle chiavi. Maria Stella stava attraversando la strada, la testa calata, senza tagliare, e all'improvviso si fermò proprio quando stava sopraggiungendo una macchina. Signorina, Si è fatta male? Prende su. Piano. Ti fa male, di colpo, io non lo so. Sì, non è colpa mia. Non si preoccupi, non è successo niente. Che stavo a camminare. Grazie a tutti, grazie. Lei che vuole? No, voglio accompagnare la signora all'ospedale. No, non ci vado all'ospedale. No. Non mi sono fatta niente. Quando è successo non è colpa mia, voglio un referto medico. E perché vuole un referto medico? Perché poi alla dimenticanza della signora può dire sempre che ho subito delle fratture. No. Io passo qua con l'assicurazione. Non si preoccupi, sono il commissario Montalbano, ma sono tutte responsabilità. Se ci piglia la responsabilità, lei me ne va. Signora, dove va? Prendo la macchina e vado a casa, grazie di tutto. No, non se ne parla nemmeno, l'accompagno io. Lei non è in condizione di guidare, non lo vede come tremo. Mi dia le chiavi, l'accompagno io, mi crede? No. Signora, è la cosa migliore, mi dia le chiavi. Prego, si appoggia a me. No, grazie, non ne ho bisogno. Allora, la macchina è di là. Entro stasera uno dei miei uomini le porta la macchina davanti alla porta di casa. Si diressero verso l'auto di Montalbano. Maria Stella strascicava tanticchia la gamba mancina e teneva la spalla in una posizione che forse le faceva provare meno dolore. Il commissario Montalbano, l'odore della notte. Con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante. E con Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio, posta elettronica, sceneggiato, chiocciolarai.it.